fumo, ma no, mi discuto, a fine sarà. Piede vagante, più luce darà, fra tenebre errante, al piede vagante, più luce darà, più luce darà. Ma nobile scudo, ma nobile scudo, la fine sarà. Ma nobile scudo la fede sarà.